le coppine, il formaggio e il sapore, aggiù sono i soli unici ingredienti. Se qualche dubbio fa su questo tuo